Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Manuela Mandracchia legge Il barone rampante di Italo Calvino. L'ultimo tentativo di catturare Cosimo fu fatto da nostra sorella Battista. Iniziativa sua, naturalmente, compiuta senza consultarsi con nessuno, in segreto, come faceva lei le cose. Uscì nottetempo con una caldaia di vischio e una scala Pioli e invischiò un carrubo dalla cima al piede. Era un albero su cui Cosimo usava posarsi ogni mattino. Al mattino, sul carrubo si trovarono appiccicati cardellini che battevano le ali, scriccioli tutti avviluppati nella poltiglia, farfalle notturne, foglie portate dal vento, una coda di scoiattolo e anche una falda strappata dalla marsina di Cosimo. Chissà se egli si era seduto sul ramo ed era poi riuscito a liberarsi o se invece, più probabilmente, dato che da un po' non lo vedevo portare la marsina, quel brandello ce l'aveva messo apposta per prenderci in giro. Comunque, l'albero restò laidamente imbrattato di vischio e poi seccò. Cominciammo a convincerci che Cosimo non sarebbe più tornato, anche nostro padre. Da quando mio fratello saltava per gli alberi di tutto il territorio d'Ombrosa, il barone non osava più farsi vedere in giro, perché temeva che la dignità ducale fosse compromessa. Si faceva sempre più pallido e scavato in volto, e non so fino a che punto la sua fosse ansia paterna e fino a che punto preoccupazione di conseguenze dinastiche. Ma le due cose ormai facevano tutt'uno, perché Cosimo era il suo primogenito, erede del titolo, e se mal si può dare a un barone che salta sui rami come un francolino, meno ancora si può ammettere che lo faccia un duca, sia pur fanciullo. E il titolo controverso non avrebbe certo in quella condotta dell'erede trovato un argomento di sostegno. Preoccupazioni inutili, si intende, perché delle velleità di nostro padre gli ombrosotti ridevano e i nobili che avevano ville là intorno lo tenevano per matto. Ormai tra i nobili era invalso l'uso d'abitare in ville in luoghi ameni, più che nei castelli dei feudi, e questo faceva già sì che si tendesse a vivere come privati cittadini, a evitare le noie. Chi andava più a pensare all'antico ducato d'Ombrosa? Il bello d'Ombrosa è che era casa di tutti e di nessuno, legata a certi diritti verso i marchesi d'Ondariva, signori di quasi tutte le terre, ma da tempo libero comune, tributario della Repubblica di Genova. Noi ci potevamo star tranquilli, tra quelle terre che avevamo ereditato ed altre che avevamo comprato per niente dal comune in un momento che era pieno di debiti. Cosa si poteva chiedere di più? C'era una piccola società nobiliare l'intorno, con ville, parchi ed orti fin sul mare. Tutti vivevano in allegria facendo visita e andando a caccia. La vita costava poco, sapevano certi vantaggi di chi sta a corte senza gli impicci, gli impegni e le spese di chi ha una famiglia reale cui badare, una capitale, una politica. Nostro padre invece queste cose non le gustava. Lui si sentiva un sovrano spodestato e coi nobili del vicinato aveva finito per rompere tutti i rapporti. Nostra madre, straniera, si può dire che non ne avesse mai avuti. Il che aveva anche i suoi vantaggi, perché, non frequentando nessuno, risparmiavamo molte spese e mascheravamo la penuria delle nostre finanze. Col popolo d'Ombrosa non è da dire che avessimo rapporti migliori. Sapete come sono gli ombrosotti, gente un po' gretta che bada ai suoi negozi. In quei tempi si cominciavano a vendere bene i limoni, con l'usanza delle limonate zuccherate che si diffondeva nelle classi ricche, e avevano piantato orti di limoni dappertutto e riattato il porto rovinato dalle incursioni dei pirati tanto tempo prima. In mezzo tra Repubblica di Genova, possessi del re di Sardegna, regno di Francia e territori vescovili, trafficavano con tutti e si infischiavano di tutti. Non ci fossero stati quei tributi che dovevano a Genova e che facevano sudare ogni data d'esazione, motivo ogni anno di tumulti contro gli esattori della Repubblica. Il barone di Rondò, quando scoppiavano questi tumulti per le tasse, credeva sempre che fossero sul punto di venirgli a offrire la corona ducale. Allora si presentava in piazza, soffriva agli ombrosotti come protettore, ma ogni volta doveva fare presto a scappare sotto una grognola di limoni marci. Allora diceva che era stata tessuta una congiura contro di lui, dai gesuiti, come al solito, perché si era messo in testa che tra i gesuiti e lui ci fosse una guerra mortale e la compagnia non pensasse ad altro che a tramare i suoi danni. In effetti c'erano stati degli screzi per via d'un orto la cui proprietà era contesa tra la nostra famiglia e la compagnia di Gesù. Ne era sorta una lite e il barone, essendo allora in buona con il vescovo, era riuscito a far allontanare il padre provinciale dal territorio della diocesi. Da allora nostro padre era sicuro che la compagnia mandasse i suoi agenti ad attentare alla sua vita e ai suoi diritti. E da parte sua cercava di mettere insieme una milizia di fedeli che liberassero il vescovo, a suo parere caduto prigioniero dei gesuiti, e dava asilo e protezione a quanti dai gesuiti si dichiaravano perseguitati, cosicché aveva scelto come nostro padre spirituale quel mezzo giansenista con la testa tra le nuvole. D'una sola persona nostro padre si fidava, ed era il cavaliere avvocato. Il barone aveva un debole per quel fratello naturale, come per un figliolo unico e disgraziato. E ora non so dire se ce ne rendessimo conto, ma certo doveva esserci, nel nostro modo di considerare il Carrega, un po' di gelosia, perché nostro padre aveva più a cuore quel fratello cinquantenne che noi ragazzi. Del resto, non eravamo i soli a guardarlo di traverso. La generalessa e Battista fingevano di portargli rispetto, invece non lo potevano soffrire. Lui, sotto quell'apparenza sottomessa, se ne infischiava di tutto e di tutti. E forse ci odiava tutti, anche il barone cui tanto doveva. Il cavaliere avvocato parlava poco, certe volte lo si sarebbe detto sordomuto o che non capisse la lingua. Chissà come riusciva a fare l'avvocato prima, e se già allora era così stranito, prima dei turchi. Forse era pur stato persona d'intelletto se aveva imparato dai turchi tutti quei calcoli di idraulica, l'unica cosa a cui adesso fosse capace di applicarsi e per cui mio padre ne faceva lodi esagerate. Non seppi mai bene il suo passato, né chi fosse stata sua madre, né quali fossero stati in gioventù i suoi rapporti con nostro nonno. Certo anche lui doveva essergli affezionato per averlo fatto studiare d'avvocato e avergli fatto attribuire il titolo di cavaliere. Né come fosse finito in Turchia. Non si sapeva neanche bene se era proprio in Turchia che aveva soggiornato tanto a lungo, o in qualche stato barbaresco, Tunisi, Algeri, ma insomma in un paese maomettano. E si diceva che si fosse fatto maomettano pure lui. Tante se ne dicevano che avesse ricoperto cariche importanti, gran dignitario del sultano, idraulico del divano o altro di simile, e poi una congiura di palazzo, o una gelosia di donne, o un debito di gioco, l'avesse fatto cadere in disgrazia e vendere per schiavo. Si sa che fu trovato incatenato a remare tra gli schiavi, in una galera ottomana presa prigioniera dai veneziani, che lo liberarono. A Venezia viveva poco più che come un accattone. Finché non so cos'altro aveva combinato, una rissa, con chi potesse rissare un uomo così schivo, lo sa il cielo, e finì di nuovo in ceppi. Lo riscattò nostro padre tramite i buoni uffici della Repubblica di Genova e ricapitò tra noi, un omino calvo con la barba nera, tutto sbigottito, mezzo mutolo. Ero bambino, ma la scena di quella sera mi è rimasta impressa, infagottato in larghi panni non suoi. Nostro padre l'impose a tutti come una persona di autorità. Lo nominò amministratore, gli destinò uno studio che s'andò riempiendo di carte sempre in disordine. Il cavaliere avvocato vestiva una lunga zimarra e una papalina a fez, come usavano allora nei loro gabinetti di studio molti nobili e borghesi. Solo che lui nello studio, a dir la verità, non ci stava quasi mai, e lo si cominciò a veder girare vestito così anche fuori, in campagna. Finì col presentarsi anche a tavola in quelle fogge turche, e la cosa più strana fu che nostro padre, così attento alle regole, mostrò di tollerarlo. Nonostante i suoi compiti di amministratore, il cavaliere avvocato non scambiava quasi mai parola con Castaldi o Fittavoli o Manenti, data la sua indole timida e la difficoltà di favella. E tutte le cure pratiche, il dare ordini, lo star dietro alla gente, toccavano sempre in effetti a nostro padre. Enea Silvio Carrega teneva i libri dei conti. E non so se i nostri affari andassero così male per il modo in cui lui teneva i conti o se i suoi conti andassero così male per il modo in cui andavano i nostri affari. E poi faceva calcoli e disegni di impianti di irrigazione e riempiva di linee e cifre una gran lavagna con parole in scrittura turca. Ogni tanto nostro padre si chiudeva con lui nello studio per ore. Erano le più lunghe soste che il cavaliere avvocato vi faceva. E dopo poco, dalla porta chiusa, giungeva la voce adirata del barone, gli accenti ondosi d'un diverbio, ma la voce del cavaliere non s'avvertiva quasi. Poi la porta s'apriva. Il cavaliere avvocato usciva con i suoi passetti rapidi nelle falde della zimarra. Il fez ritto sul cocuzzolo, prendeva per una porta finestra e via per il parco e la campagna. «Enea Silvio! Enea Silvio!» gridava nostro padre correndogli dietro. Ma il fratellastro era già tra i filari della vigna o in mezzo ai limoneti e si vedeva solo il fez rosso procedere ostinato tra le foglie. Nostro padre l'inseguiva chiamandolo. Dopo un po' li vedevamo ritornare, il barone sempre discutendo, allargando le braccia, e il cavaliere piccolo vicino a lui, ingobbito, i pugni stretti nelle tasche della zimarra. In quei giorni Cosimo faceva spesso sfide con la gente che stava a terra. Sfide di mira, di destrezza, anche per saggiare le possibilità sue di tutto quel che riusciva a fare di là in cima. Sfidò i Monelli al tiro delle piastrelle. Erano in quei posti vicino a Porta Capperi, tra le baracche dei poveri e dei vagabondi. Da un leccio mezzo secco e spoglio, Cosimo stava giocando a piastrelle quando vide avvicinarsi un uomo a cavallo, alto, un po' curvo, avvolto in un mantello nero. Riconobbe suo padre. La marmaglia si disperse. Dalle soglie delle catapecchie le donne stavano a guardare. Il barone Arminio cavalcò fin sotto l'albero. Era il rosso tramonto. Cosimo era tra i rami spogli. Si guardarono in viso. Era la prima volta, dopo il pranzo delle lumache, che si trovavano così, faccia a faccia. Erano passati molti giorni, le cose erano diventate diverse. L'uno e l'altro sapevano che ormai non c'entravano più le lumache nell'obbedienza dei figli o l'autorità dei padri. Che di tante cose logiche e sensate che si potevano dire, tutte sarebbero state fuori posto. Eppure qualche cosa dovevano pur dire. «Date un bello spettacolo di voi», cominciò il padre amaramente. «È proprio degno di un gentiluomo». Gli aveva dato il voi, come faceva nei rimproveri più gravi, ma ora quell'uso ebbe un senso di lontananza, di distacco. «Un gentiluomo, signor padre, è tale stando in terra come stando in cima agli alberi», rispose Cosimo e subito aggiunse, «se si comporta rettamente». «Una buona sentenza», ammise gravemente il barone, «quantunque, ora e poco, rubavate le susine a un fittavolo». Era vero. Mio fratello era preso in castagna. Cosa doveva rispondere? Fece un sorriso, ma non altero, cinico, un sorriso di timidezza, e arrossì. Anche il padre sorrise, un sorriso mesto, e chissà perché arrossì anche lui. «Ora fate comunella coi peggiori bastardi ed accattoni», disse poi. «No, signor padre, io sto per conto mio e ognuno per il proprio», disse Cosimo, fermo. «Vi invito a venire a terra», disse il barone con voce pacata, quasi spenta, «e a riprendere i doveri del vostro stato». «Non intendo obbedirvi, signor padre», fece Cosimo. «Me ne duole». Erano a disagio tutti e due, annoiati. Ognuno sapeva quel che l'altro avrebbe detto. «Ma i vostri studi? E le vostre devozioni di cristiano?» disse il padre. «Intendete crescere come un selvaggio delle Americhe?» Cosimo tacque. Erano pensieri che non s'era ancora posto e non aveva voglia di porsi. Poi fece: «Per essere pochi metri più su, credete che non sarò raggiunto dai buoni insegnamenti?» Anche questa era una risposta abile, ma era già come uno sminuire la portata del suo gesto, segno di debolezza dunque. L'avvertì il padre e si fece più stringente. «La ribellione non si misura a metri», disse. «Anche quando pare di poche spanne, un viaggio può restare senza ritorno». Adesso mio fratello avrebbe potuto dare qualche altra nobile risposta, magari una massima latina, che ora non me ne viene in mente nessuna, ma allora ne sapevamo tante a memoria. Invece s'era annoiato a stare lì a fare il solenne. Cacciò fuori la lingua e gridò: «Ma io dagli alberi piscio più lontano!» Frase senza molto senso, ma che troncava netto la questione. Come se avessero sentito quella frase, si levò un gridio di monelle intorno a Porta Capperi. Il cavallo del barone di Rondò ebbe uno scarto. Il barone strinse le redini e s'avvolse nel mantello come pronto ad andarsene. Ma si voltò. Trasse fuori un braccio dal mantello e, indicando il cielo che s'era rapidamente caricato di nubi nere, esclamò: «Attento, figlio! C'è chi può pisciare su tutti noi!» E spronò via. La pioggia, da lungo tempo attesa nelle campagne, cominciò a cadere a grosse rade gocce. Di tra le catapecchie si sparse un fuggi-fuggi di monelli incappucciati in sacchi che cantavano «Ceve, ceve, l'aiga va peve». Cosimo sparì, abbrancandosi alle foglie già grondanti che a toccarle rovesciavano docce d'acqua in testa. Io, appena m'accorsi che pioveva, fui in pena per Cosimo. L'immaginavo zuppo mentre si stringeva contro un tronco senza riuscire a scampare alle acquate oblique. E già sapevo che non sarebbe bastato un temporale a farlo ritornare. Corsi da nostra madre. «Piove! Che farà Cosimo, signora madre?» La generalessa scostò la tendina e guardò piovere. Era calma. Il più grave inconveniente delle piogge è il terreno fangoso. Stando lassù ne è immune. «Ma basteranno le piante a ripararlo?» «Si ritirerà nei suoi attendamenti». «Quali, signora madre?» «Avrà ben pensato a prepararli in tempo». «Ma non credete che farei bene a cercarlo per dargli un ombrello?» Come se la parola ombrello d'improvviso l'avesse strappata dal suo posto d'osservazione campale e ributtata in piena preoccupazione materna, la generalessa prese a dire: «Ja, ganz gewiss! E una bottiglia di sciroppo di mele, ben caldo, avvolta in una calza di lana, e un panno d'incerato da stendere sul legno che non trasudi umidità. Ma dove sarà ora, poverino? Speriamo tu riesca a trovarlo!» Uscii carico di pacche nella pioggia, sotto un enorme paracqua verde, e un altro paracqua lo tenevo chiuso sotto il braccio da dare a Cosimo. Lanciavo il nostro fischio, ma mi rispondeva solo il croscio senza fine della pioggia sulle piante. Era buio. Fuori dal giardino non sapevo dove andare, muovevo i passi a caso per pietre scivolose, prati molli, pozzanghere, e fischiavo, e per mandare in alto il fischio inclinavo indietro l'ombrello e l'acqua mi frustava il viso e mi lavava via il fischio dalle labbra. Volevo andare verso certi terreni del demanio, pieni d'alberi alti, dove all'ingrosso pensavo che potesse essersi fatto il suo rifugio. Ma in quel buio mi persi e stavo lì, serrandomi tra le braccia ombrelli e pacchi. E solo la bottiglia di sciroppo avvoltolata nella calza di lana mi dava un poco di calore. Quando ecco in alto, nel buio, vidi un chiarore tra mezzo agli alberi, che non poteva essere né di luna né di stelle. Al mio fischio mi parve di intendere il suo in risposta. «Cosimo! Biagio!» Una voce tra la pioggia lassù in cima. «Dove sei?» «Qua! Ti vengo incontro, ma fa presto che mi bagno!» Ci trovammo. Lui, imbacuccato in una coperta, scese sin sulla bassa forcella d'un salice per mostrarmi come si saliva attraverso un complicato intrigo di ramificazioni fino al faggio dall'alto tronco dal quale veniva quella luce. Gli diedi subito l'ombrello e un po' di pacchi e provammo ad arrampicarci con gli ombrelli aperti, ma era impossibile e ci bagnavamo lo stesso. Finalmente arrivai dove lui mi guidava. Non vidi nulla, tranne un chiarore come di tra i lembi d'una tenda. Cosimo sollevò uno di quei lembi e mi fece passare. Al chiarore d'una lanterna mi trovai in una specie di stanzetta, coperta e chiusa da ogni parte da tende e tappeti, attraversata dal tronco del faggio, con un piancito d'assi, il tutto poggiato ai grossi rami. Lì per lì mi parve una reggia, ma presto dovetti accorgermi di quant'era instabile, perché già l'esserci dentro in due ne metteva in forse l'equilibrio, e Cosimo dovette subito darsi da fare a riparare falle e cedimenti. Mise fuori anche i due ombrelli che avevo portato, aperti, a coprire due buchi del soffitto. Ma l'acqua colava da parecchi altri punti ed eravamo tutti e due bagnati, e quanto a fresco era come stare fuori. Però c'era ammassata una tale quantità di coperte che ci si poteva seppellire sotto, lasciando fuori solo il capo. La lanterna mandava una luce incerta, guizzante, e sul soffitto e le pareti di quella strana costruzione i rami e le foglie proiettavano ombre intricate. Cosimo beveva sciroppo di mele a grandi sorsi, facendo «Pua! Pua!» «È una bella casa», dissi io. «Oh, è ancora provvisoria», s'affrettò a rispondere Cosimo. «Devo studiarla meglio». «L'hai costruita tutta da te?» «E con chi, allora? È segreta». «Io potrò venirci?» «No, mostreresti la strada a qualcun altro». «Il babbo ha detto che non ti farà più cercare». «Deve essere segreta lo stesso». «Per via di quei ragazzi che rubano? Ma non sono tuoi amici?» «Qualche volta sì e qualche volta no». «E la ragazza col cavallino?» «Che ti importa?» «Volevo dire se è tua amica, se ci giochi insieme». «Qualche volta sì e qualche volta no». «E perché qualche volta no?» «Perché o non voglio io o non vuole lei». «E quassù, lei, quassù, la faresti salire?» Cosimo, scuro in volto, cercava di tendere una stuoia cavallata sopra un ramo. «Se ci venisse la farei salire», disse gravemente. «Non vuole lei?» Cosimo si buttò coricato. «È partita». «Di», feci sottovoce. «Siete fidanzati?» «No», rispose mio fratello, e si chiuse in un lungo silenzio. L'indomani faceva bel tempo e fu deciso che Cosimo avrebbe ripreso le lezioni dall'abate Fauchelevent. Non fu detto come. Semplicemente e un po' bruscamente il barone invitò l'abate, invece di star qui a guardare le mosche, l'abbé, ad andare a cercare mio fratello dove si trovava e fargli tradurre un po' del suo Virgilio. Poi temette d'aver messo l'abate troppo in imbarazzo, cercò di facilitargli il compito, disse a me: «Va a dire a tuo fratello che si trovi in giardino tra mezz'ora per la lezione di latino». Lo disse col tono più naturale che poteva, il tono che voleva tenere d'ora in poi. Con Cosimo sugli alberi tutto doveva continuare come prima. Così ci fu la lezione. Mio fratello seduto a cavalcioni d'un ramo d'olmo, le gambe penzoloni, e l'abate sotto, sull'erba, seduto su uno sgabelletto, ripetendo in coro esametri. Io giocavo l'intorno e per un po' li perdetti di vista. Quando tornai, anche l'abate era sull'albero. Con le sue lunghe, esili gambe nelle calze nere cercava di starsi su una forcella e Cosimo l'aiutava reggendolo per un gomito. Trovarono una posizione comoda per il vecchio e insieme compitarono un difficile passo, chini sul libro. Mio fratello pareva desse prova di gran diligenza. Poi non so come fu, come l'allievo scappasse via. Forse perché l'abate lassù si era distratto ed era restato allocchito a guardare nel vuoto come al solito. Fatto sta che rannicchiato tra i rami c'era solo il vecchio prete nero, col libro sulle ginocchia, e guardava una farfalla bianca volare e la seguiva a bocca aperta. Quando la farfalla sparì, l'abate s'accorse d'essere là in cima e gli prese paura. S'abbracciò al tronco e cominciò a gridare «Oscur! Oscur!» finché non venne gente con una scala e pian piano egli si calmò e discese.